Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi parleremo ancora di Industry 4.0. Voi che ascoltate abitualmente la trasmissione potreste dirmi che barba, sempre sta Industry 4.0. No, perché oggi ne parliamo con senso critico, cercando non solo di sposare questa famosa rivoluzione, ma anche di vedere se ci sono dei contro, oppure se questa rivoluzione c'è veramente. Perché qual è il fatto di questa teorica quarta rivoluzione industriale? Che quando ci sono le rivoluzioni industriali c'è sempre un aumento della produttività. Quando hanno messo i telai automatici invece di quelli manuali, certo che la produttività è cresciuta. Bene, negli ultimi anni tutti parlano di Industry 4.0, ma la crescita della produttività del lavoro in Italia è stata praticamente nulla e anche negli altri paesi è stata abbastanza modesta. Questa quarta rivoluzione industriale è un po' un paradosso. Quando hanno fatto la prima rivoluzione industriale, coloro che la facevano non sapevano di stare facendo una rivoluzione industriale, semplicemente cambiavano i telai e poi magari facevano i treni. Oggi noi sappiamo di fare una rivoluzione industriale, prima rivoluzione industriale consapevole, ma non abbiamo certo lo stesso incremento della produttività che si è verificato nelle altre rivoluzioni industriali, quelle vere. Il nostro Virgilio nell'inferno del senso critico oggi è il professor Beltrametti, Luca Beltrametti dell'Università di Genova, direttore del Dipartimento di Economia, che anche lui notava delle cose interessanti sulla produttività. Vediamo un po' di dirle. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Allora, come mai c'è la quarta rivoluzione industriale, però si è fatta accento alla produttività del lavoro in Italia nel 2000, oggi dopo 15 anni è 101 e anche negli Stati Uniti è cresciuta negli altri periodi, ma è abbastanza ferma anche lì, proprio negli Stati Uniti, che sono la patria dell'interconnessione. Sì, come diceva lei, mi è piaciuta la sua definizione, la prima rivoluzione industriale consapevole. Credo che sia nella visione ottimistica questa la verità, cioè parliamo molto di un fenomeno che ha motivi molto seri per essere preso sul serio, però ad oggi la conferma empirica che questa rivoluzione sia effettivamente partita non c'è, perché noi veniamo da un decennio in cui la produttività media del lavoro media annua è cresciuta a circa la metà della velocità alla quale è cresciuta nel decennio precedente. Questo non solo in Italia, devo dire, questa è una tendenza del tutto generale che riguarda anche gli Stati Uniti, anche paesi più in salute del nostro. E tra l'altro questo rallentamento della produttività, che vale dal 2004 in poi sostanzialmente, è precedente alla crisi finanziaria del 2007. Quindi tra gli osservatori c'è effettivamente un po' di sorpresa, nel senso che da un lato si va ai convegni su Industria 4.0 e si registra, credo anche in parte giustamente, un clima di entusiasmo e di grande ottimismo. Poi uno prende in mano le statistiche ufficiali e viene un po' la depressione, perché ripeto, parliamo pure degli Stati Uniti, che sono uno scenario più felice dell'Italia. L'Italia è completamente piatta, però diciamo che il tasso medio annuo di crescita, per esempio nel periodo 96-2003, quello della prima ondata della digitalizzazione, era oltre il 3%, 3,3%, mentre nel periodo 2004 fino ad oggi la crescita media annua della produttività è stata meno della metà, 1,5. Quindi questo non sembra effettivamente parlare proprio di una rivoluzione in atto. Ma non sarà che magari c'è un tetto alla produttività? C'è un limite oltre il quale diventa difficile andare? Ma insomma, questa è un'ipotesi un po' sciagurata, ma è un'ipotesi che non possiamo scartare a priori. Io credo che effettivamente quella che lei avanza sia una possibilità, un po' tanto pessimistica, ma è, volendo, è anche possibile che siamo arrivati un po' al capolinea. Ma credo che onestamente sia un po' presto per esprimerci. Io credo che di qui però a non molti anni, 3 o 4, dovrà succedere una delle seguenti 3 cose. O effettivamente la produttività misurata dalle statistiche si impenna, è quello che tutti speriamo, si impenna in tutti i paesi industrializzati. E questo vuol dire che effettivamente questa rivoluzione è nata oggi in piccole nicchie, in piccoli settori, in piccole realtà industriali, dove effettivamente già si vede una crescita significativa dei profitti e della marginalità, e quindi si estende a tutta l'economia, e quindi questo è lo scenario felice in cui riparte un glorioso periodo di crescita. E tra l'altro ne avremo un disperato bisogno, quindi sarebbe una circostanza veramente fortunata. Oppure può anche essere, ma questo lo credo meno probabile, che ci si accorga che c'è qualcosa di specifico in queste nuove produzioni digitali che sfugge un po' alla misura delle statistiche ufficiali e che quindi in realtà la rivoluzione sia partita, ma che ancora non la vediamo nei dati perché i meccanismi di misura non sono adeguati. Però c'è una letteratura economica che ha piuttosto diffusamente studiato questa ipotesi e la tendenza della letteratura è di scartarla. Però può darsi che qualche aspetto di verità ci sia in questo, perché effettivamente misurare le produzioni digitali è molto più difficile che non misurare, che non contare le mele e le pere prodotte in agricoltura. La terza ipotesi, professore? La terza ipotesi è che noi tra qualche anno dovremo dire che c'è stato un po' un eccesso di entusiasmo e che quindi sì, è un fenomeno molto rilevante per alcune specifiche imprese, in alcune specifiche nicchie, ma che questa cosa, e che poi andiamo un po' a cadere in quello che suggeriva lei all'inizio, non ha la portata straordinaria di una macchina a vapore o di un motore a scoppio o di una lampadina inventata da Edison. Quindi può anche darsi che fra qualche anno si debba ammettere che questa dell'internet delle cose, della robotica collaborativa, eccetera, della simulazione, sono tutte cose straordinarie, ma che non hanno la dimensione, l'impatto quantitativo che ebbero altre innovazioni tecnologiche come il telegrafo o la luce elettrica. Ma sai che cos'è? Che in realtà noi non sappiamo dove si va a finire. Infatti molto spesso i fornitori di tecnologie dicono alle aziende manifatturiere: iniziate a mettere i sensori e i chip sui componenti, interconnetteteli, vedete i dati che arrivano e da lì trarrete delle conseguenze e poi si vedrà. Poi si vedrà che è un po' diverso rispetto al fatto che quando c'erano le macchine a vapore o le lampadine si mettevano e l'effetto era immediato. Beh, si mettevano, però bisognava anche predisporre un impianto elettrico, tirare dei fili, mettere delle prese, quindi insomma non era esattamente avvitare una lampadina. Però non sono uno storico, per carità, però insomma credo che però questo approccio graduale non sia sbagliato, perché insomma si evidenzia anche una recente indagine di Federmeccanica, per esempio, lo evidenzia, che le imprese sono un po' spaventate da questa prospettiva di questo salto tecnologico che viene descritto. Sull'indagine di Federmeccanica, che tra l'altro è un'indagine che ha coordinato lei come dipartimento a Genova, poi arriviamo o alla fine di questa puntata oppure faremo un'altra puntata dedicata perché ne vale la pena. Però a me viene anche un dubbio: non sarà che da parte degli imprenditori italiani che in larga parte sono sottocapitalizzati e comunque sono di piccola dimensione, c'è una certa renitenza a investire, e magari l'imprenditore, come fecero gli Agnelli a un tempo, mette solo una minima parte dei suoi utili nel suo core business, il resto lo tesorizza oppure lo mette in attività diversificate? Non c'è un po' di vigliaccheria? Può essere. Dunque, la indagine è stata curata da un gruppo di lavoro di Federmeccanica di cui io facevo parte, ma insomma sono stato uno dei soggetti, non l'unico. E venendo alla sua questione, sì, c'è un tema secondo me molto importante relativo alla particolare struttura dell'industria italiana, perché è vero quello che dicevamo sui dubbi della crescita della produttività, però è anche vero che se andiamo a vedere com'è cresciuta la produttività dall'inizio del secolo a oggi, negli ultimi 20 anni, dal 95 a oggi, vediamo che in quell'orizzonte gli Stati Uniti sono cresciuti del 45%, la Germania del 30% e l'Italia di un misero 5%, sto parlando degli ultimi 20 anni, quindi c'è anche una specificità italiana, e questa io credo che ha a che fare con la struttura, anche la natura familistica di molti pezzi di industria italiana. In particolare, diciamo, c'è un dato che secondo me deve far riflettere, lo citavano lunedì scorso Alesina e Giavazzi sul Corriere, cioè, la proprietà familiare è molto diffusa sia in Germania che in Italia, addirittura in Germania più che in Italia, il 90% delle imprese tedesche è di proprietà familiare, in Italia siamo solo, tra virgolette, all'86%. Quello che fa la differenza è la gestione, perché in Germania solo meno del 30% di queste imprese poi è gestito da membri della famiglia, che invece si affidano a dei manager professionisti. Ecco, ci dobbiamo interrompere per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. L'articolo di Alesina Giavazzi, lo anticipo ai nostri ascoltatori, è così importante che poi sarà oggetto di una delle schede nella seconda parte di questa trasmissione. Restate con noi. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con il professor Beltrametti dell'Università di Genova in questa puntata un po' di senso critico sull'Industry 4.0. Parlavamo della bassa produttività e citavamo, poi lo commentiamo col professore, un articolo di Alesina Giavazzi che era molto critico sulle colpe anche, o chiamiamole colpe, responsabilità degli imprenditori nella bassa produttività italiana. Ascoltate in questa scheda un breve riassunto dell'articolo. In un ventennio la produttività oraria nelle aziende italiane è cresciuta in tutto del 5%. Negli Stati Uniti, nel medesimo periodo, 8 volte di più, 40%. In Francia, Gran Bretagna e Germania, 6 volte di più. Anche Spagna e Portogallo hanno fatto meglio, più 15% in Spagna, 3 volte più che noi, e più 25% in Portogallo, 5 volte di più. Differenze straordinarie. Esordisce così un articolo di Francesco Giavazzi e Alberto Alesina, pubblicato sul Corriere della Sera dello scorso 21 novembre e molto legato al tema di questa puntata. Se stiamo vivendo la quarta rivoluzione industriale, allora com'è possibile che la produttività non aumenti? Alesina e Giavazzi elencano 5 possibili ragioni. La prima è il nanismo delle imprese italiane. Aziende piccole tendono, in media non tutte, ad essere meno produttive di quelle grandi. Queste ultime, infatti, possono sfruttare meglio economie di scala e la specializzazione nell'uso della forza lavoro. La seconda è la proprietà delle imprese. L'86% circa delle nostre imprese è di proprietà familiare. In Germania sono anche di più, circa il 90%. Ma mentre in Germania meno del 30% delle imprese familiari è gestito da membri della famiglia e tutte le altre da manager professionisti, in Italia quasi il 70% è gestito in famiglia. Qual è la probabilità che il miglior manager possibile per un'impresa fondata da un padre o da una madre sia la figlia o il figlio? A noi pare piuttosto bassa, rispondono Alesina e Giavazzi e proseguono. Vari lavori di ricerca dimostrano che le imprese a gestione familiare sono in media meno produttive di quelle a gestione professionale e rimangono in media più piccole, proprio per tenere tutto in famiglia. Terza ragione, il fatto che in Italia, in molti settori, l'allocazione delle risorse produttive è inefficiente, cioè non c'è stato abbastanza ricambio. Le imprese meno produttive non sono uscite dal mercato, così lasciando spazio a quelle più produttive. Quarta ragione, il fatto che le imprese italiane non hanno tratto altrettanto beneficio dalla rivoluzione informatica rispetto a quelle di altri paesi. L'industria italiana ha mancato in parte questa spinta tecnologica, arrivandoci in ritardo. Quinta, il livello medio di istruzione, in particolare il numero di laureati, che in Italia è molto più basso della media europea. Pertanto, il capitale umano sarebbe più basso. Allora, Beltrametti, lei che cosa pensa delle tesi di Alesina Giavazzi? Ma a me sembrano molto condivisibili, posso anche aggiungere, secondo me ci sono anche degli aspetti proprio culturali, cioè il nodo vero io credo che sia nel passaggio generazionale, che frena la crescita dimensionale delle imprese, cioè io credo che piccolo non sia necessariamente bello in campo industriale, nel senso che nelle imprese piccole c'è meno meritocrazia, nelle imprese familiari c'è meno meritocrazia, nel senso che spesso persone di grande talento vedono le proprie prospettive completamente bloccate, prospettive di carriera, di avanzamento, dalla presenza di membri del nucleo familiare che di diritto, tra virgolette, siedono in certi posti. Io credo che ci sia giusto un grande rispetto sociale verso l'imprenditore che crea un'impresa, che rischia e che col proprio talento crea posti di lavoro, crea ricchezza. E credo che questo sia un'attitudine sociale molto giusta. Però credo che paradossalmente, lo dico paradossalmente ma ci credo, sarebbe meglio avere più diciamo rispetto sociale verso un figlio di imprenditore che gira in Ferrari e fa la bella vita e non disturba in azienda, rispetto a un figlio che si senta di diritto nella condizione di dover condurre un'azienda e di dover in qualche modo quindi avere. Però in mano... ci sono anche alcuni modelli familiari che sono virtuosi, di famiglia povera, di azienda ricca e di famiglia che reinveste tutto nell'azienda. Io credo che il problema sia che si tende a fare un po' di tutta erba un fascio. Un conto sono le piccole, dove ci sono situazioni anche disastrose e di parassitismo, un conto sono le medie. Io sono convinto che abbia ragione Fulvio Coltorti, che ha detto che l'Italia si regge, lui addirittura quantificava al 35% del valore aggiunto, su un gruppo di 5.000 medie imprese, non grandi e non piccole, che sono imprese manifatturiere e imprese che si sono un po' inventate il loro business, tipo la Mapei, tipo la Toz, che si sono create una nicchia nella quale sono leader, che sono imprese familiari che esportano all'80% e che sono quelle su cui si regge l'Italia. Poi ci sono delle grandi imprese che ormai sono andate all'estero e tutto un pulviscolo di piccole aziende dove c'è un po' di tutto. Poi un'altra idea che avrei io è che in Italia non c'è la produttività perché manca la politica industriale, dove politica industriale, come l'hanno fatta la Francia e gli Stati Uniti, significa avere intanto grandi fondi pubblici per la ricerca di base che poi va alle aziende e poi una serie di istituzioni tipo le famose Fraunhofer tedesche o anche istituzioni finanziarie. In Germania ce ne sono un sacco, le racconto anch'io nel mio libro appena pubblicato che si chiama appunto Industriamo l'Italia, che racconta i modelli politici di politica industriale tedeschi e USA a confronto con quello italiano. Ecco appunto una politica industriale che accompagni lo sviluppo, e questo pure in Italia non c'è. E questo è certamente vero. Il governo con questa azione sul 4.0 nell'ultima legge di bilancio forse disegna un abbozzo di politica industriale molto basata sugli investimenti privati e nulla direi sugli investimenti pubblici, tutto basato sulla capacità di incentivi fiscali che dovrebbero stimolare gli investimenti privati. Però diciamo c'è un'idea per la prima volta dopo tanti anni di un governo che individua un coacervo di tecnologie che però hanno una loro coerenza tra di loro, non ha la pretesa di finanziare in modo selettivo attraverso bandi o altro, ma è un qualche cosa diciamo rivolto a tutti. L'idea è: se tu investi in un capannone io non ti do l'incentivo, se tu investi in una di queste tecnologie ti do un incentivo. Qui c'è un primo abbozzo di politica industriale che dobbiamo credo riconoscere. Però forse il deficit di produttività deriva che comunque fino ad ora, ammesso e non concesso che quella di ora sia una politica industriale, la politica industriale non c'è stata. Ma assolutamente sì, anche perché diciamo, nell'immaginario collettivo c'è questa idea, credo, che negli anni 50-60 l'Italia ha fatto meraviglie, il boom economico, eccetera, e che poi è cominciato un periodo più cupo. Ma se uno va a vedere i dati, vede che tra il 1970 e 90 in realtà l'Italia è andata benone dal punto di vista industriale. Andavo a vedere proprio ieri, tra il 70 e il 90 la manifattura italiana è tra il 70 e il 90 è cresciuta più del doppio, 126%. Negli stessi anni la manifattura tedesca cresceva solo del 41%. E dunque dobbiamo concludere, dunque, quindi in 10 secondi. Adesso c'è una coincidenza temporale con l'arrivo dell'euro, perché dal 90 in poi la Germania cresce come manifattura del 31% e l'Italia rimane totalmente al palo. Quindi io temo che non possiamo escludere l'ipotesi che ci sia un forte legame con la moneta unica. Con questo non voglio dire che la moneta unica sia un male di per sé. Evidentemente l'Italia ad oggi non ha ancora imparato a muoversi all'interno di queste nuove regole in modo efficace. Ecco, dobbiamo chiudere, professore, però il tema è talmente interessante e dobbiamo ancora parlare della ricerca, che andiamo avanti domani, per cui la saluto anche gli ascoltatori, ma domani alle 13:10 ancora proseguiamo a parlare di senso critico sull'Industry 4.0, perché è veramente importante. A domani, professore. Buona giornata a tutti.